old town music. Lo sguardo in alto, lo sguardo in basso. Ogni giorno un altro passo. Ancora oggi mi chiedo dove sarò, se basterà il flow accanto a me, chi avrò? Non so ancora gestirmi bene, sto fra il bene e il male, mi confesso su una strumentale, amen. Spezzo il pane, spezzo pare, mi dicono dove vuoi andare, ho un sogno da realizzare, quindi fra, non mi puoi confinare qua, il mio limite è l'aldilà. Volo in alto come un'aquila e sono già qua, quindi fra, non mi puoi confinare qua, il mio limite è l'aldilà. Volo in alto come un'aquila e sono già qua. Maledetto questo mondo, la mia vita è appeso su un filo. Testa voci che sento, alcune sono brutte, altre mi rendono contento. Spero non spariscano col tempo, come brezza marina spazzata via dal vento. Dai uno io docento che soffri fra lo sento, chiami il cellulare spento. Ogni cuore si avvicina, non so perché poi lo spezzo. Sono fresco e suono grezzo, son sempre lo stesso ma non parlo. Le mie parole hanno un prezzo, quindi fra, non mi puoi confinare qua, il mio limite è l'aldilà. Volo in alto come un'aquila e sono già qua, quindi fra, non mi puoi confinare qua, il mio limite è l'aldilà. Volo in alto come un'aquila e sono già qua. Maledetto questo mondo.